140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi con Radio 24, li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter con il mio account @MartaCagnola. Ecco i protagonisti dell'intervista di oggi di 140 caratteri. Studi di Radio 24, Milano. Forse non è la felicità. Un album atteso e un tour sold out per i Fast Animals and Slow Kids. Un nome originale per una band made in Perugia. Stavamo chiusi in questa sala prove molto piccola, molto brutta e molto puzzolente, e suonavamo e dopo un po' di prove abbiamo detto va bene ragazzi, ok, ufficialmente siamo un gruppo dopo tipo 5 prove, va bene, e dobbiamo darci un nome. Stavamo guardando questa puntata dei Griffin ufficialmente. Straordinario. E quindi niente, abbiamo praticamente preso spunto da lì dove c'era questo cartone animato che stava andando di animali veloci rincorsi da era un reality show praticamente, sì, è vero, un reality show che stavano guardando durante questa puntata di un ragazzino che correva lento rincorso da un giaguaro. E quindi noi ai tempi, che eravamo ancora forse meno scemi di adesso perché nel tempo siamo riusciti ad aumentare, abbiamo detto bellissimo, un nome fantastico, prendiamolo. Cantavamo in inglese, abbiamo tradotto la cosa da animali veloci bambini lenti in inglese, e così è stato. Quindi veramente una scelta vergognosa, ecco. Di quanto tempo fa stiamo parlando? Più di 10 anni fa? 10 anni fa, mi sa. Dieci anni fa. Quasi 10 anni fa, perché era fine 2008? Sì. Fine 2007. Fine 2007, ok. E quindi quasi 10 anni. Cosa è successo in questi 10 anni? Avete fatto dei dischi che sono diventati di culto per un pubblico molto affezionato, un numero di date impressionanti. Eh sì, diciamo che forse la cosa che abbiamo fatto di più in questi 10 anni è suonare. Suonare tanto, dappertutto, dal ristorante specializzato in carne al locale più bello del mondo. Abbiamo dormito in posti inenarrabili. Ed ecco, niente, quindi diciamo che suonando tanto e incontrando tante persone, piano piano queste persone hanno detto ai loro amici di venire al concerto, quindi ogni volta che ritornavamo nello stesso posto c'era più gente, fino a quando la cosa adesso ha preso una dinamica che ci permette anche di vivere di musica, il che probabilmente forse è il periodo più è la cosa più bella che ci è capitata in questi 10 anni. Forse non è la felicità. Allora, il biglietto da visita dell'album è un'affermazione pesante, interessante. Forse non è la felicità. Chi l'ha scelto? Perché? Allora, devi sapere che questa è una storia abbastanza divertente, la racconto, poi dopo lo faccio spiegare agli altri, perché non mi voglio tuffare in quel vortice terribile di spiegazioni, ma noi decidiamo i dischi sempre insieme, nello stesso ristorante cinese. Cinese, Da cui andiamo praticamente ormai da sempre. A Perugia? Ecco. A Perugia, sì. Mm-hmm. C'è questo ristorantino dove noi andiamo lì e non possiamo uscire fino a quando non è stato scelto il nome del disco, o comunque sia fino a quando non è stata presa una decisione importante. E anche questa volta è successo la stessa cosa, solo che questa volta siamo rimasti lì fino a 00:30, alla fine ci hanno costretto ad uscire. È arrivata la fine di un tour, dopo tanti anni in cui abbiamo suonato in un po' dappertutto, ma mai avendo, no? Ho sempre un riscontro che saliva senza mai l'esploit. Abbiamo avuto questo esploit bellissimo, abbiamo finito tutto quanto, e dove ci siamo ritrovati? Nella nostra sala prove, che è grande la metà di questo studio, anche se probabilmente chi ascolta non può vedere lo studio. È gigante questo studio. È grande rispetto alla nostra sala prove, insomma. Immagina la piena di amplificatori, praticamente abbiamo gli amplificatori che ci superano in altezza. Perché dobbiamo mettere uno sopra l'altro, no? E soprattutto immagina la allagata, perché esatto. È esplosa. È esplosa. Insomma, dopo il tour tutto pienissimo, wow, famosissimi, bellissimo, ritorniamo alla nostra sala prove, esplode un muro di fango, tutto schifo, noi tiriamo via tutti quanti gli amplificatori, usciamo fuori, guardiamo e vediamo queste immagini della nostra musica, della nostra vita ammassata da una parte in mezzo al fango. E ci siamo proprio resi conto, ragazzi, ma non è che forse non è la felicità anche questa cosa qui. Quando vi chiedono se fate musica, adesso sto per dire un aggettivo bruttissimo, preparatevi. Generazionale, cosa rispondete? Molto cauti andiamo, nel senso l'aggettivo generazionale lo deve dare chi ascolta, nel senso darsi dei generazionali è veramente troppo, è pesante. Ovviamente se mai fosse, questo ci lusinga, perché vuol dire che quello che noi stiamo pensando colpisce anche qualcun altro, e questa è una cosa importante ovviamente. Fare rock in provincia, in Italia tanta musica importante è nata in provincia. Per noi è essenziale, nel senso, lo ripetiamo sempre, ma come un mantra anche ai concerti: salve a tutti, siamo i Festani Mozzarella Kids, veniamo da Perugia ogni volta, diciamo questa cosa qua, perché in realtà per noi la provincia è stata una roba importante, perché, come dire, quelli grandi, no? Le band dei grandi sono quelle che tuttora adesso ogni tanto, quando facciamo le cose che non gli piacciono, ci danno degli schiaffi correttivi. E quindi vivere in un ambiente che alla fine ti protegge e ti corregge, per noi è stato essenziale. Abbiamo sperimentato tanto e tuttora adesso ci aiutano. Quando registriamo i dischi, per esempio, chiediamo le chitarre, amplificatore in prestito a band della zona, ad amici. E quindi, ecco, vivere in provincia ti permette di sgomitare di meno, secondo me, e quindi di concentrarti di più su quello che è magari la qualità sonora e il pezzo, il strutturare la musica, ecco. Guarda tutto intorno come sta cambiando, allacciati le scarpe che c'è da camminare. E dove si va con i Fast Animals and Slow Kids? Cioè, ce le allacciamo, andiamo, ma dove andiamo? Dentro un furgone, poi ti fermi a un Sarni Grill, poi rientri dentro al furgone, ti fermi a un autogrill, poi rientri dentro... Alla fine arrivi sul locale e li suoni. Ed è tutto per questa puntata di 140 caratteri con i Fast Animals and Slow Kids. Continuate a seguirci ogni giorno con il mio account Twitter, @MartaCagnola. Le interviste di 140 caratteri tornano ogni domenica dopo il giornale radio delle 8.